cisterne che non tengono l'acqua. Leggo nella Bibbia, in Geremia, capitolo 2, versetto 13. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Queste parole sono state usate circa 2500 anni fa per denunciare l'assurdità dell'adorazione degli idoli in sostituzione di una fede sincera nel Dio creatore di tutte le cose. Cos'è cambiato oggi? Nulla. I nostri idoli non si chiamano più Bel, Nebo o Marduk. Preferiamo chiamarli successo, religione, spiritualità, ma il risultato è sempre lo stesso. Un surrogato di Dio che non può soddisfare la nostra sete. Anche oggi ci stiamo costruendo cisterne screpolate, destinate a prosciugarsi, piene di acqua stagnante. Guardiamoci intorno e vedremo che le cisterne sono ovunque e presentano a prima vista alcuni vantaggi. Infatti, essendo autocostruite, sono comode, vicine e la loro acqua è sempre disponibile. Ce ne sono per tutti i gusti. Se hai il denaro ciò che cerchi, ci sono molti modi per procurarselo. Se hai il sesso, lo trovi ormai ovunque. Se cerchi una religione, la scelta è vasta. Se hai il successo ciò che cerchi, forza, datti da fare, che puoi diventare qualcuno. Ma quando avrai raggiunto tutte queste cose, puoi scommettere che avrai ancora sete, perché stai bevendo acqua putrida. La sorgente invece non la trovi in tutti gli angoli, devi cercarla in un luogo preciso, o meglio, in una persona precisa, perché puoi trovarla solo se ti rivolgi a Gesù. Quando la trovi, scopri che la sua acqua è pulita, dissetante, fresca e si rinnova continuamente. È viva e non senti più il bisogno delle cisterne a cui eri abituato. Perché allora accontentarti delle cisterne? Cerca la sorgente e quando l'avrai trovata capirai che cosa voglia dire dissetarsi davvero. Non diventerai una persona che osserva riti, regole o si sforza di comportarsi diversamente o di sembrare felice, perché quella è tutta acqua stagnante, caratteristica di qualunque religione. Sarai piuttosto una persona nuova, che non ha più bisogno di cercare l'acqua nel mondo che lo circonda, perché come Gesù ha detto, non avrai più sete.